Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Caro benzina, continua a salire il prezzo del carburante anche in Friuli Venezia Giulia, dove gli sconti regionali danno una mano ad automobilisti e distributori. Vigilia del primo controesodo nel weekend, sabato giornata da bollino nero sull'autostrada. Alla barriera dell'Iser previsti 28.000 transiti in ingresso. In arrivo da domenica una nuova ondata di calore con temperature alte anche di notte. È necessario idratarsi e non uscire nelle ore più calde. I consigli dei sanitari. Denunciato a Trieste il presunto autore del furto di un geolocalizzatore su un autobus di linea. Tramonta a Spilimbergo in via definitiva l'ipotesi di un nuovo termovalorizzatore, ritirata la richiesta da parte di Ecomistral. C'è carenza in regione di tecnici specializzati nelle aziende del legno. Le cifre parlano dell'84% di deficit in personale tra operai e artigiani. 12:31 e 20 secondi, di nuovo buongiorno da Lara Zani e Sebastiano Franco, edizione meridiana del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che si apre con il caro benzina. I prezzi dei carburanti continuano a fare notizia. Il pieno costa sempre di più anche in Friuli Venezia Giulia, dove però gli sconti regionali aiutano. Il record anche oggi in autostrada sulla A28 a Porcia e sulla A4 a Duino-Aurisina. Il sito sui prezzi dei carburanti della regione lo certifica. Un litro di benzina è arrivato a 2,33 euro al litro, quello del gasolio a 2,25. Prezzi dei carburanti alle stelle, le accise salgono con benefici per le casse dello Stato e ai consumatori il conto finale di un'estate salata. Ma cosa sta succedendo? È colpa dei tagli alla produzione di petrolio e alla riduzione delle scorte, spiega il friulano Bruno Bearzi, presidente nazionale della FIGIS Confcommercio, la federazione dei gestori degli impianti stradali. Considerate che manca circa il 20% di quella che sarebbe la domanda di prodotto raffinato. Questo fa sì che il prezzo della benzina continui a salire, anche se il cartello del prezzo medio avrebbe dovuto impedirlo. Già, il prezzo medio regionale oggi è di 1,846 euro al litro per il gasolio con il self-service e di 1,943 euro per la benzina, sempre self. Ma la pubblicazione non sembra condizionare i prezzi praticati dai gestori. Non ha nessun senso, perché io non è che perché c'è un prezzo medio magari più basso a livello regionale possa praticare quel prezzo. Noi gestori abbiamo l'obbligo d'acquisto in esclusiva dalle compagnie e su questa fornitura noi marginiamo 4 centesimi. Ma ci sono anche le cosiddette stazioni di servizio indipendenti, poche in Friuli Venezia Giulia, tante in Veneto, dove decenni or sono in molti scelsero di convertire una parte dei terreni. Loro possono rifornirsi direttamente dai depositi, senza obbligo di acquisto dalle compagnie, ed ecco che mediamente il prezzo scende. Oggi in Veneto il gasolio è venduto a 1,82 euro al litro, la benzina a 1,92, ma si tratta comunque di pochi centesimi di differenza. Da noi ci sono gli sconti regionali che aiutano, un sistema promosso dai gestori. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. È la vigilia del primo controesodo della stagione estiva. A partire da domani, venerdì 18 agosto, giornata da bollino rosso, la rete di autostrade Alto Adriatico sarà attraversata da migliaia di turisti di ritorno dalle ferie sulle coste croate e di lavoratori originari dell'est Europa che faranno rientro nel nord Italia. Alla barriera di Trieste-Lisert, sabato 19, giornata da bollino nero, potrebbero verificarsi le maggiori criticità. Si ipotizza il transito di circa 28.000 veicoli in ingresso. Complessivamente saranno tra i 185.000 e i 194.000 i mezzi che transiteranno lungo l'intera rete di autostrade Alto Adriatico. Domenica 20 sarà una giornata da bollino rosso con quasi 180.000 transiti previsti. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Oltre 35 gradi in pianura, 33 sulla costa, dove però farà molto caldo anche di notte. Da domenica per almeno 3-4 giorni si annunciano giornate caldissime in tutto il Friuli Venezia Giulia, e se finora casi di disidratazione arrivati in ospedale sono stati pochi, i sanitari insistono sull'importanza di bere molto ed evitare di star fuori. Anziani sotto il sole nelle ore più calde, a Trieste in particolare, non è una novità. Il richiamo della tintarella e dei bagni è cosa nota, ma le prossime saranno giornate molto calde in tutto il nord-est, si annunciano temperature sopra i 30 gradi. Il sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera nazionale ha registrato un boom di mortalità da caldo, il cosiddetto hot strike, nel centro e nel sud Italia. Al nord è andata diversamente, perché luglio, salvo i primi giorni, è stato abbastanza fresco, tanto che a Trieste non si è verificato alcun caso nel reparto di medicina interna ha limitato il numero di pazienti ricoverati per disidratazione. Siamo con Dario Bianchini, direttore della medicina interna dell'ospedale di Catinara. Di solito a inizio settimana eravate abituati ad avere ricoverati fuori reparto. Con la carenza di personale avete anche dovuto chiudere dei posti letto, ma questo non è successo. Perché? Perché le persone disidratate probabilmente sono arrivate meno in pronto soccorso. Il pronto soccorso ha lavorato in maniera molto efficiente, mettendo in campo quei provvedimenti d'urgenza che sono l'idratazione per via parenterale e poi potendo così dimettere le persone. E perché l'azienda si è dotata di 40 posti letto nell'ospedale di comunità, dove una parte di queste persone che hanno bisogno di una certa assistenza infermieristica e di un certo apporto di attività sanitaria sono state ricoverate, sgravando l'ospedale di ricoveri che sarebbero stati inutili. Quando una persona effettivamente è in disidratazione e quindi deve scattare il campanello d'allarme? I primi segni di disidratazione dell'anziano specialmente sono un rallentamento idromotorio, la persona è meno vivace, spesso molto fiacca, molto astenica, fa fatica a stare in piedi. Talvolta il primo segno della disidratazione è la sincope, la presincope, la caduta a terra, perché ci sono degli abbassamenti improvvisi di pressione, specialmente in persone che assumono farmaci ipotensivi, ma il 20% della popolazione assume farmaci ipotensivi, quindi è un dato frequente. Sappiamo che terapia va rimodulata, ma non sempre questo è possibile. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. Diamo ora uno sguardo al tempo. Cielo in prevalenza sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 29 gradi e mare poco mosso, con temperatura di 26 gradi. Gorizia 28 gradi e mezzo, Udine Pordenone 28 gradi. A Tolmezzo 25 gradi, Forni di Sopra 23, Tarvisio 20 gradi e 5 decimi, Piancavallo 19 gradi, Sappada 21. Sul Monte Zoncolan 17 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 17 gradi. A Lignano e Grado 29 gradi e 5 decimi, temperatura del mare 27 gradi. Le previsioni, oggi pomeriggio cielo sereno poco nuvoloso sulla zona montana, da poco nuvoloso a variabile, con probabili rovesci e temporali sparsi. Sulla costa, in giornata, venti a regime di brezza, in serata qualche temporale potrà interessare, marginalmente anche la pianura, e qualche temporale localmente potrebbe essere anche forte. Domani su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, con venti a regime di brezza. Sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile con probabili rovesci e temporali sparsi che saranno possibili già dal mattino. Nel pomeriggio qualche temporale potrà interessare anche la pianura. Qualche temporale localmente potrebbe essere anche forte. La carenza del personale infermieristico al pronto soccorso di Udine. I sindacati chiedono alla direzione d'azienda un incontro dopo che è stato superato il tetto di giornate della mobilità d'urgenza da parte degli infermieri del 118 di Cividale. È sempre più critica la situazione del pronto soccorso di Udine, dove le carenze di organico, anche a causa del periodo estivo, fanno sentire il loro peso. Lo denunciano le sigle sindacali UIL FPL e NURSIND, che si sono rivolte alla direzione generale del pronto soccorso per chiedere un incontro e discutere sulla questione. Da oltre un anno, spiegano i sindacati, l'azienda sanitaria ha dovuto coprire i buchi di organico attivando mobilità d'urgenza da altri servizi, cioè attingendo al 118 di Cividale per avere due persone in più al lab di Udine. Una scelta emergenziale che può durare al massimo 30 giorni nell'anno solare, cui si era già andati in deroga. In alternativa l'azienda si è rivolta anche al 118 di Gemona, cui ricordano nel comunicato ci si è rivolti negli anni in modo copioso per coprire i turni nei pronto soccorso di San Daniele, Tolmezzo e Udine. La proposta è allora di reclutare nuovo personale infermieristico da assegnare al pronto soccorso di Udine e nel frattempo di valorizzare i dipendenti che garantiscono la copertura dei turni aggiuntivi. Se si guardano i numeri, Udine vede 26 addetti a fronte di 65.000 ingressi annui, mentre a Catinara sono 76 per 50.000. Come ci ha spiegato il dottor Denis Caporale, direttore generale dei servizi sociosanitari della SUFC, quello della mobilità d'emergenza è uno strumento che non vorrebbero usare più. Si dice in sostanza d'accordo con i rilievi mossi dai sindacati e pensa di estendere ad altre figure la possibilità di operare nei pronto soccorso, prevedendo un aumento delle tariffe. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Crodi Aviano si conferma ancora una volta realtà di ricerca e di cure di eccellenza, punto di riferimento fondamentale nella nostra regione e al di fuori dei suoi confini, a dirlo l'assessore regionale alla salute Riccardi, a fronte di un sofisticato trattamento in tomoterapia che ha consentito una completa remissione da un sarcoma cardiaco su un giovane paziente affetto da un raro tipo di tumore al cuore. È frutto di un importante lavoro di equipe al quale hanno contribuito l'esperienza del team medico sui sarcomi e sulla fase di individuazione definizione del target, dei fisici nella pianificazione della cura, dei tecnici durante la somministrazione e del personale infermieristico nella fase assistenziale, ha aggiunto Riccardi. A Spilimbergo tramonta definitivamente l'ipotesi di realizzazione di un nuovo termovalorizzatore. Ecomistra l'ha infatti ritirato la sua richiesta di autorizzazione. Fatto bene, più che bene. Non ci servono tutte le sporcizie degli altri paesi e delle altre città, ne abbiamo abbastanza delle nostre. C'è soddisfazione a Spilimbergo per la notizia del ritiro del progetto di realizzazione di un nuovo inceneritore nella zona industriale del Cosa Tauriano da parte della società Ecomistral, gestore dell'attuale impianto di termovalorizzazione. Il ritiro dell'istanza di autorizzazione del nuovo impianto, che sarebbe stato in grado di trattare sino a 70.000 tonnellate annue di rifiuti speciali pericolosi e non, è stata formalizzata ieri agli uffici regionali competenti ed arriva dopo una lunga mobilitazione popolare e il recente diniego al progetto annunciato dalla regione per l'eccessiva vicinanza alle abitazioni. Il sindaco Enrico Sarcinelli. Era preannunciata nel momento in cui anche in sede di commissione gli uffici regionali avevano sostanzialmente appoggiato quella che era stata una ricostruzione tecnica da parte nostra, da parte degli uffici comunali e da parte di quanti avevano analizzato l'istanza. Vi erano dei motivi escludenti che avrebbero poi portato a un sostanziale diniego da parte degli uffici regionali. La ditta ha preferito ritirare. Ritenete che questo ritiro sia definitivo? Cerchiamo di mantenere lo stesso profilo che abbiamo voluto mantenere in tutti questi mesi, la società evidentemente di diritto privato, in quella zona evidentemente i motivi escludenti permangono, sia la vicinanza al centro abitato che la vicinanza al depuratore. Francesco Franz è portavoce del comitato No Inceneritore. Se effettivamente il criterio determinante è stata la troppa vicinanza rispetto all'abitato e anche l'impianto attuale non si trova molto distante e bisognerebbe andare, come abbiamo proposto nella nostra petizione, a condurre una campagna di monitoraggio dell'aria, una campagna di monitoraggio dell'inquinamento esistente e andare appunto a condurre quello studio epidemiologico su tutta la zona dello Spilimberghese e del Magnaghese per andare a verificare, cosa che non è mai stata fatta, gli effetti delle numerose industrie inquinanti che insistono sul territorio. Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina della cronaca: ha rubato un geolocalizzatore satellitare da un autobus di linea, 3.000 euro il valore dell'apparecchio, è stato identificato e denunciato dalla polizia locale di Trieste il presunto responsabile del furto commesso qualche settimana fa dalla cabina di guida di un autobus di linea parcheggiato nel garage del silos. Con l'aiuto delle telecamere di sicurezza interne al silos è stato identificato l'uomo, un cittadino bulgaro di 45 anni con innumerevoli precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per furto aggravato. Gli investigatori stanno raccogliendo ulteriori elementi a suo carico sul furto di un altro geolocalizzatore, sempre all'interno del silos, qualche giorno prima. Un'operazione congiunta di controllo da parte della polizia di Tolmezzo e della polizia locale della comunità di montagna della Carnia alla stazione delle autocorriere di Tolmezzo ha permesso di individuare due soggetti di nazionalità spagnola di 31 e 26 anni, ora indagati a piede libero per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre segnalati alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti tre maggiorenni, due di nazionalità spagnola e uno di nazionalità italiana, insieme a due minorenni, uno di nazionalità italiana e uno di nazionalità ungherese. Sequestrati 60 grammi di hashish, 20 di marijuana e 15 di ketamina. Molti controlli in più in questa settimana di Ferragosto anche per il reparto carabinieri di biodiversità di Tarvisio. Sono state effettuate alcune sanzioni per la violazione della normativa regionale in materia di prodotti EPJ, con contestuale sequestro e distruzione dei funghi raccolti illecitamente. Particolarmente controllate le zone turisticamente più sensibili come il lago del Predile e la Val Saisera, sulla strada del Monte Lussari, ai ciclisti sorpresi a percorrerla in discesa è stata contestata la scorrettezza e la pericolosità del comportamento con l'invito a condurre il mezzo a mano. Sulla strada è stata sorpresa anche una moto in transito che è stata quindi sequestrata. Mancano operai e artigiani del legno e alcune aziende cercano di risolvere il problema affidando ai macchinari tutte le operazioni manuali. Siamo andati a Tarcento. In Friuli Venezia Giulia l'assunzione di attrezzisti, operai e artigiani del legno è difficile nel 63% dei casi, percentuale ancora più alta tra carpentieri e montatori. Lo si intuisce fin dal cartello che campeggia fuori dalla ditta Pinosa di Tarcento, azienda che vende macchinari per la prima lavorazione della biomassa legnosa vergine per scopi energetici, per l'80% all'estero. Per ovviare all'impossibilità di reperire personale nel settore della prima lavorazione, indica il titolare, si cerca quanto possibile di automatizzare tutte le operazioni manuali. Mauro Pinosa, imprenditore. Abbiamo cercato di automatizzare tutto il ciclo produttivo con macchinari, taglio laser, taglio plasma, e stiamo pensando anche a applicare dei robot di saldatura. Secondo gli ultimi dati Excelsior Union Camere, le assunzioni più difficili in base ai titoli di studio tra i diplomi professionali si registrano nell'indirizzo legno. Mancano candidati nell'84% dei casi. Una differenza di passo, quella tra scuola e industria, è evidente anche in altri settori. Ci mancano tutti questi tecnici specializzati che sono saldatori, sono carpentieri, sono elettricisti, sono elettromeccanici. Quindi ci mancano queste professionalità, ce le stiamo rubando uno con l'altro e questo è un grosso problema, quindi secondo me bisognerebbe incentivare con delle borse di studio, con delle agevolazioni, la frequenza di queste scuole. I 260 impresari boschivi della regione hanno un ruolo fondamentale nella manutenzione delle foreste. Nella zona di Lusevera l'ultima tempesta ha buttato giù come birilli innumerevoli frassini già morti da tempo o ammalati. In Friuli Venezia Giulia si sfrutta solamente un quinto della ricrescita annua del bosco. Il 40% della foresta è su proprietà pubblica e gli addetti ai lavori chiedono ai comuni piani di taglio pluriennali anche a 10 anni, non semestrali. Orizzonte temporale questo che consentirebbe pianificazione, investimenti e creazione di filiere vere e proprie. Tarcento, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Riapriamo la cronaca per una notizia di una tragedia in Friuli. Due finanzieri soccorritori di 28 e 30 anni sono morti ieri caduti in parete mentre salivano in cordata una via nel cuore delle Alpi Giulie occidentali sul Monte Mangart al confine tra Italia e Slovenia. Giulio Alberto Picchioni di Reggio Emilia è originario della provincia di Teramo e Lorenzo Paroni di Pordenone, le vittime entrambi in guardia di finanza a Tarvisio. Stavano risalendo la via Piussium, sesto grado che percorre il verticale pilastro nord lungo una traccia ad alta difficoltà. I due giovani erano in attività ufficiali di addestramento come finanzieri ed erano attesi in caserma in serata. La notizia della morte è giunta in nottata. La messa in sicurezza del torrente Torre come urgenza. Il consigliere regionale Mauro Di Bert, capogruppo di Fedriga Presidente, richiama l'attenzione sulle condizioni di argine e alveo del torrente con un ordine del giorno accolto dalla Giunta chiedendo alla Regione di avviare l'iter progettuale e finanziario propedeutico a un intervento di sistemazione dell'intero corso del torrente. Nel corso degli anni, scrive il consigliere, si sono verificate spesso esondazioni e allagamenti dei territori contermini, oltre a fenomeni erosivi e scarsa tenuta degli argini, che richiedono necessari interventi di messa in sicurezza e di consolidamento. Diamo uno sguardo agli appuntamenti della giornata. Prende il via Tarcento la 53esima edizione del Festival dei Cuori, che proseguirà fino al 22 agosto facendo tappa anche a Gemona e a Bovez in Slovenia. Alle 21 al Parco Vivanda la serata inaugurale che vedrà l'esibizione di tutti i gruppi partecipanti provenienti da Honduras, Italia, Messico, Moldavia, Senegal, Corea del Sud e Stati Uniti. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nella Sala Margherita. Per Piancavallo a Teatro, Bam Bam Teatro presenta La guerra dei bottoni alle 17.30 in Piazzale Mario della Puppa o, in caso di forte maltempo, in Sala Convegni. Per Trieste Estate, al Museo Sartorio va in scena Fragile, ironica rappresentazione di teatro e musica che racconta di Carso e di avventure di un bicchiere. Mister Goblet alle 21. A Udine, per concerti al vapore, il concerto di musica salata swing, flamenco, canzone d'autore e altro che non si sa con Rocco Burtone, Paolo Dal Sacco, Gianni Iardino, alle 21 nella corte di Vicolo Silio. Le giovani promesse della musica classica mondiale, protagoniste del calendario del 25esimo Festival Internazionale di Musica e Territori nei Suoni dei Luoghi. La kermesse fa tappa da Iello del Friuli nel chiostro dell'ex convento domenicano di Via Battisti, dove alle 21 è in arrivo il Cuore Piano Trio, ensemble interamente polacco, formato da Susanna Budianska, Jadwiga Raguszka al violoncello e Simone Ogrisek al pianoforte, che alletterà il pubblico con un programma con musiche di Taillefer, Schoenfeld e Piazzolla. Prima dello spettacolo, alle 18.45, si svolgerà la visita guidata per ammirare le celebri meridiane del borgo di Aiello. Per Carne Armonia, l'oro di Napoli, suggestioni musicali di una capitale antica con l'archetipo ensemble, alle 20.30 nella sala polifunzionale di Chiusa Forte. Riparte Arte Cinema, video ritratti d'artista, la rassegna cinematografica gratuita organizzata da Airpac Friuli Venezia Giulia con la proiezione di Pollock di Ed Harris alle 21 nella corte Marco Daviano di Palazzo Torriani in via Ciotti 49 a Gradisca di Sonzo. Custodi, l'ultimo film di Marco Rossitti, che ha recentemente ricevuto il premio Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO al Trento Film Festival, verrà proiettato alle 21 nel cortile dei Colonos a Villa Caccia di Lestizza, nell'ambito della rassegna Avostanis. Rossitti è andato alla ricerca di storie di custodi, persone sconosciute ai più, ma note alle terre di cui sono guardie fedeli. Oltre al regista saranno presenti Luciano Gaudenzio, direttore della fotografia, e Daniela Pizzarotti, che si è occupata della presa diretta del suono. Avatar, la via dell'acqua di James Cameron è in programma alle 21.15 nel cinema all'aperto al giardino Loris Fortuna di Piazza Primo Maggio a Udine. Due nipoti e un nonno sui sentieri dei boschi. È Le cinque porte, l'ultimo romanzo di Mauro Corona pubblicato da Mondadori, che si rivolge a un pubblico di tutte le età. L'appuntamento agli incontri con l'autore e con il vino alle 18.30 al Pala Pineta. In dialogo con Corona la giornalista e scrittrice Elisabetta Pozzetto. A Sappada il luogo magico, un pomeriggio con orto teatro di laboratori, letture, racconti e giochi per bambini e famiglie di tutte le età, dalle 15 alle 17 nel Parco degli Ignomi o in caso di maltempo nella Sala Congressi di Cima Sappada. Calici di stelle nelle città del vino del Friuli Venezia Giulia si conclude a Camino al Tagliamento con una degustazione di vini dei produttori locali a Casaliani in via Chiesa dalle 19.30 alle 24. Al Museo Geologico della Carnia, ad Ampezzo, visita guidata con il responsabile scientifico Giuseppe Muscio al museo prima e poi alla mostra temporanea Il Caro Estinto. Nel frattempo i più piccoli potranno divertirsi con l'animazione di Bimbi Museo alle 16. Da oggi al 27 agosto Opicina festeggia il Santo Patrono, San Bartolomeo. Si è partiti questa mattina con il mercatino del piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico Un Pozzo di Occasioni. Nel pomeriggio alle 16.30 il torneo di Burraco nella sede dell'associazione Sclad Mitiaciuk con premiazione alle 18 sul sagrato della chiesa. 12.52 e 22 secondi, il giornale si chiude qui. Da Lara Zani e Sebastiano Franco, buon proseguimento di giornata. La collaborazione tecnica è stata di Andrea Fontanotte e Mauro Cumini, in segreteria Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.